ancor con la sua morte assicurar vuol la mia pace. Ancina della rupe l'incanto sola non userà. Quell'importuno, cauta alma mia, se vuoi goder. Mia bella, eccomi. Sospirosa, ma calla ancor, favella. A cui rispetto mai, per te si vada. Va per io, vi sono mostri o giganti. O cuore, o braccio, o spada, da vincerli per te. Non ridisco al sol pensarvi. Troppo mi costeria, tostando un tuo periglio. La capricciosa mia brava importuna. Tra così colgo il laccio, me d'oro di periglio e me d'impaccio. Dunque mi vedi resti glorioso, dolce morir per te. Tu lasciarmi e morir, tua bella fede, nel funesto pensier.